Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. E 8 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini, il riposo del guerriero. Cerchiamo di farlo oggi con un argomento spero interessante per tutti, nel senso che il lavoro è fondamentale per tutti. Cerchiamo di parlarne, di capire come affrontarlo quando c'è, come affrontarlo quando non c'è, che cosa fare, cosa farsi venire in mente, cercare di smuovere la nostra mente e magari sorridere anche da questo punto di vista, visto che oggi è domenica. Prima di introdurre l'argomento, però, vi ricordo i vari modi per contattare il riposo del guerriero: l'indirizzo di posta elettronica guerriero@radio24.it, il numero per i vostri sms, perché come sempre l'interazione fa parte del gioco, 349-238-6666. Poi il numero verde invece, perché giocheremo alle 11.30 con il mistero in 24 minuti, come sempre fino a 1000 euro da spendere sulla feltrinelli.it. Quindi libri, CD, DVD, videogames e altro ancora, ammesso che riusciate a risolvere il mistero. La risposta può essere una notizia della settimana oppure un personaggio e si parte da 1000 euro ovviamente. Più indizi vi farò ascoltare, più il premio si abbasserà. Queste in linea di massima le regole del gioco. Il numero invece per prenotarvi anche da subito: 800 24 00 24. Il Censis dice che oltre 2 milioni di giovani sono costretti a fare i bamboccioni, molti non studiano né lavorano, e oggi parliamo proprio di questo, ma ribadisco, nel modo del riposo del guerriero. Del 1970, sono passati 40 anni e in qualche modo è sempre attuale. Ilaria Lani, buongiorno, buona domenica. Buongiorno. Ilaria è responsabile delle politiche giovanili di CGIL e ci parla di una campagna che ha fatto molto discutere, è una sorta di guerriglia marketing, diciamo così, perché si tratta della campagna Giovani non più disposti a tutto. Sì, abbiamo lanciato qualche settimana fa questa campagna, inizialmente in forma anonima, anzi inizialmente era Giovani Disposte a Tutto, il clan del primo sito web. Abbiamo fisso nelle città e diffuso nel web dei finti annunci di lavoro che erano molto provocatori. Anche se poi in realtà non molto difformi da quelli che sono gli annunci di lavoro reali che troviamo nelle bacheche, nei siti web. Se diciamo che erano sì, sono simili, poi ve li faremo ascoltare tra pochissimo. E niente, quindi ci sono stati, il nostro sito è stato preso letteralmente d'assalto, e anche il forum, e diciamo le reazioni sono state diverse. Qualcuno si è arrabbiato di fronte a questi annunci. E perché si è arrabbiato? Perché magari non ha colto l'ironia che c'era dietro, invece ci ha visto una condizione che magari purtroppo vive, e quindi si è arrabbiato contro il sito, insomma, non sapendo poi qual era la finalità dietro questa operazione. Ah, perché all'inizio chiaramente, come ogni operazione di guerriglia marketing, esatto, Non si capisce bene cosa ci sia dietro, poi il, ovviamente il le carte sono state scoperte. Era ironico, si può ancora vedere, c'era anche un intro molto molto ironico, però diciamo comunque era provocatorio, noi volevamo provocare una reazione. Chiaro. Poi... Allora, intanto io sono su non più It, ma credo che sia il sito attuale, invece quello, esatto, che ancora è quello che mi stai dicendo tu, giovanidispostiatutto.com. Ah, ecco, quello invece è quello, diciamo così, originale, dove tutto è partito. giovanidispostiatutto.com. Attenzione al disposti a tutto senza la negazione, perché poi arriverà una negazione. Gli aggiornamenti sul traffico e poi sentiamo proprio questi annunci. Strade in diretta. Traffico scorrevole al momento sull'intera rete autostradale, sulle principali strade. Ricordiamo che mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera non possono viaggiare sulla rete autostradale. Occorre prudenza per la nebbia in banchi che riduce la visibilità al sud sulla 3 Salerno-Reggio Calabria tra Polla e Buonabitacolo-Padula e poi in Veneto sulla 13 tra Occhiobello e Padova Industriale. A Attenzione ai tratti ghiacciati questa mattina sulle regioni del nord, soprattutto in quota, ma nelle prossime ore è previsto un nuovo peggioramento del tempo con l'arrivo di neve fino in pianura su Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige. Ed è tutto, e il prossimo aggiornamento di Strade in Diretta tra mezz'ora circa. Il riposo del guerriero. Parliamo allora di lavoro, stiamo appunto discutendo con Ilaria Lagni, responsabile politiche giovanili CGIL nazionale, di questa campagna di guerriglia marketing, giovani disposti a tutto, e questi erano gli annunci. Gruppo finanziario cerca laureati con MBA, disponibili a fare il caffè e dog sitting al proprio capo. Gruppo informatico cerca giovani laureati con il massimo dei voti e il minimo della dignità. Agenzia di pubblicità cerca account junior con padre pronto a mantenerlo a vita. Azienda leader nel largo consumo cerca neolaureate bella presenza disposte a farsi consumare. Certo che l'ultimo era piuttosto forte, Ilaria. Sì, è forte, però diciamo rappresenta quello che è una realtà nel nostro mondo del lavoro. Cioè il fatto che, come dire, si richiede spesso alle ragazze bella presenza, si richiede di mettere a volte anche in vendita insomma se stesse. Guarda, è uscita anche una ricerca recente dove pare che anche gli uomini più belli abbiano più facilità nel trovare lavoro. Sì, sì, questo è assolutamente vero. Ovviamente noi abbiamo voluto mettere in luce, come dire, l'aspetto più eclatante, certo, che riguarda le donne, però è vero, questo è una delle... La bella presenza aiuta sempre, insomma, aiuta per dirla, sempre. Ecco, francamente. Ilaria, quindi, per far capire ai nostri ascoltatori, il sito era Giovani Disposti a Tutto, quindi questo incuriosiva, perché uno dice, ma fin dove devo arrivare per lavorare, no? E poi si è scoperto che invece quel Disposti a Tutto è stato in qualche modo non cancellato, ma si è sovrapposta una negazione. Esatto, sì. Noi abbiamo quindi inizialmente voluto provocare una reazione. Nel forum del primo sito ci sono stati quasi 800 commenti, anche nella pagina Facebook, dicevo, di persone arrabbiate, ma anche di tante persone che hanno capito l'ironia e raccontavano la loro esperienza. A un certo punto, dopo qualche giorno, sia nei manifesti attaccati nelle città, sia nel sito, è apparso questo non più. Noi volevamo sostanzialmente dire che la nostra generazione, proprio per l'assenza di lavoro, la mancanza di diritti, è costretta ad essere disposta a tutto, nell'attesa poi magari che arrivi il proprio turno, quindi ognuno deve accettare tutto sperando, nell'attesa che le cose cambino. In realtà quello che volevamo dire è che è l'ora di non essere più disposti ad accettare tutto e cominciare a richiedere insomma quelli che sono i diritti fondamentali sul lavoro. Ecco, quindi la curiosità alla fine che è arrivata è sempre: quali sono le domande che arrivano più spesso? Forse proprio quali sono questi diritti che magari non si conoscono, sì, neanche. Nel forum in realtà più che domande ci sono state grandi discussioni, sì, sia nel primo forum che nel secondo. Nel primo erano più diciamo autobiografiche, quindi racconti di lavoro, ma anche per esempio una discussione molto molto accesa è se andare o no all'estero, oppure un'altra discussione accesa è perché ho studiato. Molti dicono forse abbiamo sbagliato a studiare, perché un'altra cosa che mettono in luce quegli annunci è il fatto che parliamo di una generazione, quella dei giovani, che è la generazione più qualificata della storia della nostra Repubblica e che spesso non vede valorizzate le proprie competenze perché il mercato del lavoro sembra non ne abbia bisogno. Quindi questa è stata una delle discussioni più accese, e poi ovviamente i diritti sul lavoro. Uno dei temi che maggiormente sono stati affrontati è quello degli stage, sì, perché certo, rappresentano un po' il simbolo di un mercato del lavoro che ti mette in attesa, ti giudica eternamente in formazione, magari non sei neanche retribuito perché lo stage è non hai neanche un rimborso spese perché lo stage non lo prevede, e quindi lavori sei mesi senza avere alcun rimborso spese, senza avere alcun diritto, sperando che prima o poi ti assumano. Ilaria, c'è secondo te una categoria di laureati, per esempio, che ha più difficoltà rispetto delle altre in questo momento, dal forum appunto, cosa è emerso? Ma, diciamo che sì, diciamo che i fenomeni della precarietà si vivono maggiormente in alcuni settori, sicuramente i laureati quindi lavorano in alcuni settori avanzati, penso al settore della comunicazione come al settore appunto del terziario avanzato, sono quelli che più soffrono un mercato del lavoro che non assume, magari vive vive una condizione di mercato più variabile o comunque che tende a esternalizzare alcune competenze, quindi ti fa ricadere tutto il rischio della propria impresa sulle spalle del ragazzo o la ragazza che magari è molto competente, si è avvicinato e che però non riesce a trovare un minimo di stabilità. Ecco Ilaria, c'è poi un'ultima domanda che ti faccio, è questa: se comunque sia manca qualcosa nell'approccio invece che i giovani hanno verso il lavoro, che una certa parte ha verso il lavoro, per esempio manca la creatività oppure le aspettative sono troppo alte, cioè c'è un punto diciamo così tra virgolette negativo che andrebbe in qualche modo smussato nell'atteggiamento, dico, secondo te, questa è la tua sensazione, se c'è? Ma no, non credo che manchi, non ho perlomeno questo, non ho io forse il polso di della situazione, diciamo, forse avrebbe la pena chiederlo a un datore di lavoro. Qualche datore di lavoro scrive nel forum dicendo che sì, rimproverando il fatto per esempio anche dello studio, che spesso è troppo accademico e però quando ci si confronta con il mondo del lavoro non si riesce magari a confrontarsi con la concretezza di una serie di problemi, di difficoltà. Questo è quello che ho visto qualcuno ha lamentato nel forum. Quindi probabilmente c'è anche un problema di attese che ti formi durante il periodo della formazione, che poi non corrispondono al mondo del lavoro. E questo potrebbe appunto essere un punto anche magari dal quale partire in realtà. Io intanto ti ringrazio molto anche per quello che state facendo. Ovviamente il sito adesso da guardare è nonpiu.it, dove troverete tutte le informazioni per seguire anche l'evoluzione di quello che è tutto, insomma, è stato fatto fino adesso per aiutare proprio le politiche giovanili e quindi i giovani a trovare un mestiere. Volevo dire che adesso partirà nei prossimi giorni la seconda fase della campagna e verranno, insomma, costruiremo alcune proposte e faremo iniziative anche nei territori attraverso comitati locali della campagna, quindi chiunque voglia partecipare saremmo molto felici. Informarsi fa sempre bene. Grazie Ilaria, ciao, buona domenica. Buona domenica. Grazie. E per il vostro mestiere magari dovete cercare di essere molto preparati su determinati film. Dietro soffiata di un capo usciere corrotto rispose così a due strane domande del presidente della commissione. Le piace il cinema espressionista tedesco? Io è il grande amore della mia vita e voglio in questa sede ricordare i grandi maestri Murnau e Robert Wiene, di cui tutti noi non possiamo fare a meno dell'irrinunciabile capolavoro Das Kabinett del dottor Caligari. Caligari? E chi è? David Groft? Groft? Non sento. Groft! Griffith è il padre del cinema americano. Io lo adoro, è come se fosse mio padre, sa, dottor. Bene, giovanotto. Lei è dei nostri. Il potentissimo professor Guidobaldo Maria Riccardelli era un fanatico cultore del cinema d'arte. Una volta alla settimana obbligava dipendenti e famiglie a terrificanti visioni dei classici del cinema. In 20 anni Fantozzi ha veduto e riveduto Die Sire di Carlo Teodoro Dreyer, 6 ore. Uomo di Aran di Flaherty, 9 tempi. Ma soprattutto il più classico dei classici, La corazzata Kotionkin, 18 bobine, di cui il professor Riccardelli possedeva una rarissima copia personale. Scusi, che danno stasera? La corazzata Kotionkin. La corazzata. Bene. Vadi. Bene. Danno la corazzata. Coraggio. Ce ne vuole sicuramente. Fables, buona domenica, ciao. Pronto, Fables? Ci sei? Non c'è Fables, non lo trovo, forse c'è, ma non c'è. E vorremmo parlare proprio di quello che è il guerriglia marketing, perché da qui si parte. Cerchiamo infatti di sfruttare la nostra creatività, di vedere che cosa si può fare. In qualche modo cerchiamo di far capire che ci sono anche dei mestieri magari alternativi a quelli che possiamo aspettarci. Vediamo cosa è stato fatto. Fables, sei tornato? Sì, eccoci, buongiorno. Tu hai deciso, per evitare di guardare certi film, di metterti in proprio alla fine della tua vita. Ah sì, alla fine, all'inizio della tua vita. Il problema alla radice, anche perché appartengo a una di quelle categorie a rischio, diciamo, perché essendomi laureato in scienze della comunicazione appartengo a quelle categorie a rischio, diciamo. Vabbè, insomma, intanto ha difficoltà nel trovare lavoro, magari. È vero, però insomma, è messo in piedi intanto un blog molto seguito, che appunto bloggerilla.it, che si occupa di guerriglia marketing. Infatti volevo partire da qui, perché innanzitutto la campagna della quale abbiamo parlato forse ha un precedente, in realtà. Sì, ha un precedente, forse ne ha addirittura due anche a livello concettuale, vale a dire la creazione di annunci quantomeno assurdi e strampalati. Quindi andiamo anche, diciamo, in ordine, partendo dal 2007, primo maggio del 2007, festa dei lavoratori a Roma, durante il concerto di San Giovanni, InfoJobs, noto portale per la ricerca di lavoro, inizia a distribuire lì tra il pubblico alcuni gratta e vinci, classico gratta e vinci che possiamo trovare dal tabacchi. Ma sembravano veri? Praticamente tu dovevi... Sì. Come, scusa? Sembravano veri, voglio dire? Sì, sembravano veri, c'era scritto futuro sicuro e sotto c'era scritto gratta e lavora invece che gratta e che vinci. Meraviglia. Dove tu dovevi grattare e vincere il tuo nuovo posto di lavoro. Anche qui gli annunci erano assolutamente assurdi, te ne leggo un paio perché sono molto divertenti. Sì. Lanciatore di riso per agenzia matrimoniale, richiesta bella presenza e attitudine al lavoro di squadra. Compagno di giochi in allevamento Rottweiler, richiesto tedesco fluente e resistenza al dolore, non certo. Copertura assicurativa. Ecco. Assaggiatore di alimenti scaduti per ipermercati, richiesti gusto, curiosità e discrezione, interessante proposta a cottimo. Quindi una scena, diciamo, divertente, ma soprattutto provocatoria, perché chiaramente è durante, comunque siamo una festa particolarmente, certo, particolarmente. Senti, famosa. Fables, ma chiaramente tutti vincevano un lavoro di quel tipo, immagino, che sotto la grattatina, sì. Ecco. Cioè, e l'ultimo era addirittura collaudatore di supposte per una nuova azienda farmaceutica, pagamento a 90 in una 90, certo, giorni. Ok, andando avanti arriviamo invece al 2009, dove invece c'è un'azione secondo me molto più simile a quella che ci ha appena raccontato la CPL, sì. Perché è fatta da un blogger pubblicitario, tale Arnold, che ha un sito che si chiama diversamenteoccupati.it, dove racconta, diciamo, il mondo del lavoro attraverso delle vignette umoristiche. E ogni tanto lancia alcune campagne anche per sensibilizzare i lettori e i cittadini magari sugli argomenti di cui tratta. Quindi sta di fatto che verso maggio dello scorso anno iniziano appunto a diffondersi questi annunci quantomeno strampalati. A Roma succede all'Università La Sapienza e sul giornale romano Porta Portese, noto giornale di compravendita. Di annunci, di richiesto, sì, annunci. Di lavoro, cioè. Esatto, annunci. E su bacheca.it, sul sito, nelle città di Roma, Bologna, Milano e Torino, appaiono questi annunci che, se andiamo a leggerli, diciamo, sono un po' simili a quello che poi abbiamo visto con la campagna Non Più. Te ne leggo alcuni, e sono: impresa internazionale cerca laureato, automunito, autodidatta, autopagato. Cercasi ingegnere con esperienza ventennale per stage decennale, no, perdi tempo. Certo, non si può. Cercasi segretaria, bella presenza per posto fisso sotto la scrivania, e qui c'è anche quella cosa di cui sì, certo, parlavamo prima. Esatto, proprio molto simile, vero? Esatto, cercasi vestace bionda, under 25, laureata con master, disponibile, sterile. Ecco, sì, così non ci sono problemi di nessun genere. E in effetti sì, c'è una... Ma poi questo fatto di aver in qualche modo preso spunto, ecco, da questi annunci che sono usciti appunto, come abbiamo sentito, solo in alcune città e in un sito, oltre che sulla rivista Porta Portese romana. E c'è stato un seguito, cioè si sono lamentati di questa copia e poi oppure no, nel senso che poi le cose si passano, insomma, la rete, la comunicazione fa parte del gioco, forse, no? Guarda, la notizia in realtà un po' si è diffusa, tanto che il mio post, che è datato 28 maggio 2009, sì, ha ricevuto qualcosa come 118 condivisioni. Perché? Perché ultimamente la notizia è stata rilanciata, vale a dire che tanti blog, anche lo stesso che ha creato appunto la campagna, ha cominciato a diffondere, insomma, il fatto che poi questa campagna avesse in qualche modo un precedente, ma non tanto a livello, diciamo, operativo, nel senso che poi quella della CGL è totalmente differente, sia magari per obiettivi, perché poi vuole portare in piazza direttamente qualche cosa di concreto, ma anche nello svolgimento, perché c'era, diciamo, una parte teaser, quindi che cercava di incuriosire, per arrivare poi a una parte di svelamento che andava, certo, a negare tutta quanta la prima attività. Ma come sempre si copia dai migliori, quindi va bene così. Quello, cioè, quello vuol dire che la partenza è molto buona. Devo dire che gli annunci che hanno escogitato alla Sapienza erano davvero molto molto divertenti. Sì, ma soprattutto il bello qual era? Che se li andava a vedere sembravano i classici annunci di lavoro, vale a dire foglio semplicissimo A4 con

per il cuore. Serve una mano in agenzia con una mano all'interno. Ci ha messo tre mesi per costruire tutta questa campagna. Ci ha messo tre mesi, d'altro c'è anche il video, diciamo, del making of dove vengono realizzate queste parti umane che sono comunque sia fatte particolarmente bene. Ecco, ma io vorrei capire quanto ha speso per questa autopromozione e se poi gli è servita, perché magari qualche agenzia nel ricevere questa cosa avrà sorriso, però magari ha detto ma lasciamo perdere, non lo so, perché dipende sempre dall'effetto che una provocazione così forte fa. Sì, sicuramente. Allora, a livello di costi non so dirti quanto possa essere costata, sicuramente molto di più di quella che ti ho presentato prima, degli annunci fatti in strada o su posta cortese, perché comunque sia sono delle realizzazioni, insomma, singole per ogni singolo prodotto, cioè comunque sia un certo tipo di realizzazione. Tra l'altro lui durante la realizzazione si è servito anche, diciamo, di un'altra agenzia di pubblicità che l'ha coadiuvato anche nell'invio di questo materiale promozionale. Ecco, quindi non complimenti, so se poi questa persona... sì, se poi ha lavorato, eccetera. Quindi complimenti comunque all'idea per autopromuoversi, perché poi questo in fondo fa anche la differenza, no? Farsi venire delle idee. E tra l'altro che si occupa di creatività, credo che... Sicuramente, specialmente diciamo nel nostro settore, è fondamentale comunque sia dimostrare sin dall'inizio una qualche attitudine a pensare in modo laterale, in modo non convenzionale, se vogliamo. Ecco, invece vorrei chiudere con il lavoro del futuro, che mi sembra molto interessante. Il lavoro del futuro era un'altra, diciamo, nasce, diciamo, da un'altra provocazione che però serviva a promuovere poi una lezione allo IED, che è l'Istituto Europeo del Design, sì. Che sta sia a Roma che a Milano. Ed erano stati lanciati degli annunci più o meno divertenti, in linea, in stile con quelli di cui abbiamo già parlato, sia per quanto riguarda la CGL sia per quanto riguarda l'attività di Arnold, dove invece erano diciamo messi degli annunci per quanto riguarda possibili lavori del futuro, non so, interior design con occhi biotronici, con innesto oculare di ottrico, insomma c'erano tutte quante caratteristiche tecniche, piuttosto che copywriter con innesto mnemonico, ecco, con quindi, capacità cerebrale, cioè, di espansione. Come se ci fossimo proiettati in un futuro, non so, tra 20 anni, e vedere gli annunci come potrebbero essere tra 20 anni, no? Perché qui questo è un altro modo però forse anche un modo per far capire che bisogna cercare di guardare avanti, di guardare oltre quello che siamo in questo momento, e anche questo è uno spunto interessante. Grazie intanto Fables, ci sentiamo alla prossima puntata. Voglio ricordarvi, ciao, il sito blogguerriglia.it, e visto che parliamo di futuro andiamo proprio a parlare della generazione Millennium, lo faccio con Loretta Napoleoni. Ciao Loretta, grazie. Buongiorno. Buona domenica. Allora, parliamo di un economista e saggista che sul numero di Wired in edicola ha scritto un pezzo molto interessante intitolato proprio La generazione Millennium, che è questa generazione dei nati a cavallo degli anni 70 e 80 che si trovano a dover barattare. Come funziona, Loretta? Come ci si deve comportare? Praticamente quello che la generazione millennio sta facendo, si scambiano i consumi, che è molto interessante, nel senso, io non mi posso permettere una macchina, però ogni tanto mi serve, allora cosa faccio? O la prendo in prestito da qualcuno che ce l'ha, oppure la prendo in prestito da società che me la danno in affitto ad ore. È molto molto, diciamo, rivoluzionario come concetto, perché in un certo senso questa generazione millennium non ha più bisogno del possesso, cioè cosa fa? Utilizza un determinato prodotto, però non lo vuole più possedere, ma soprattutto non lo può più possedere, perché il problema fondamentale della generazione millennium ci sono i soldi, ragazzi, non hanno i soldi perché certo. Non hanno un lavoro, certo. E quindi tu dici, in qualche modo, se ce l'hai tu e non ce l'ho io, allora prestamelo, poi io ti presto una cosa che invece tu non hai, ne compriamone una per tutti. È un po' come la comune, voglio dire, degli anni 70, andiamo un po' lì, anche se là si viveva in comunità e quindi tutti insieme, e oggi invece questo non avviene, ma quasi, visto che si scambia comunque le cose, il baratto c'è sempre stato. Sì, dunque, allora, uno degli aspetti è sicuramente lo scambio, un altro aspetto interessante è quello del come faccio a viaggiare se non ho abbastanza soldi per farlo, e allora ci si scambia il divano letto di casa, quindi si è all'interno di una comunità, sì. E questa comunità chiaramente esiste in rete, quindi la differenza tra la comune, diciamo, classica degli anni 70 e questa, diciamo, se vogliamo chiamare comune odierna, è che quella degli anni 70 era limitata in termini proprio di spazio, questa invece è mondiale, nel senso nella rete io trovo una comunità che è una comunità globale e quindi posso viaggiare, posso fare tantissime cose, non so, per esempio un'altra attività che loro fanno è il carpooling. Allora io devo andare da Roma a Bologna e guardo su questi siti specializzati sul carpooling chi è che fa quel tragitto quando io ne ho bisogno e mi unisco praticamente al gruppo che viaggia in macchina. Ecco, questa è un'altra. Certo, mi viene in mente una cosa curiosa, però a Cuba ci sono i gialli, che sono questi ormai pensionati in determinati punti delle varie strade dell'isola, che fermano proprio le automobili e dicono: tu dove vai? Vado in questa fabbrica. Bene, allora vieni, prendi con te Tizio e Caio, che erano lì ad aspettare come se fosse una fermata dell'autobus, perché vanno nella stessa fabbrica, quindi è inutile avere un auto per più persone, visto che vai già lì e la macchina è vuota, portati anche questi due. Quindi in fondo sono idee che girano, che ci sono, è difficile farle proprie, ecco, forse per cultura ovviamente è difficile farle proprie. Io credo che gli stranieri e non gli italiani siano più vicini a questo modo di vivere, oppure mi sto sbagliando e siamo tutti nella stessa pasta? Ma dunque, questo è un modo diciamo di vivere molto anglosassone, nel senso chi ha lanciato questo consumo collaborativo. Gli stranieri, volevo dire infatti nord europei, ecco, usato un termine sbagliato. È molto, diciamo, anglosassone e anche americano. Quello che tu hai appena detto, per esempio, succede a Cuba. Cioè, io, tra l'altro, a me mi è capitato una volta a Cuba di prendere un passeggero di questo tipo. Adesso succede a Washington, io ultimamente sono stata a Washington e nell'ora di punta c'era un traffico incredibile e c'erano ad alcuni angoli di strada delle file di persone che aspettavano il carpool, quindi succede esattamente la stessa cosa, nel senso le macchine passano, chiedono chi va nella loro direzione, prendono il passeggero perché nelle autostrade americane ci sono le corsie per i carpool, cioè ci sono le corsie dove possono transitare solamente macchine che hanno almeno 3 passeggeri. E queste sono le corsie veloci, per cui diciamo in un certo senso gli Stati Uniti stanno facendo la stessa cosa che Cuba ha fatto per decenni. Certo, Loretta, però una domanda è questa, no? Se io vado in giro con la mia macchina, sono da solo, e uno mi dovesse fermare dicendo: dov'è che vai? Verso Piazzale Lotto. Ah, va bene, salgo perché così mi lasci lì, perché anche io ci devo andare. Noi non abbiamo tanto un atteggiamento aperto verso queste situazioni, cioè abbiamo paura subito che ci vogliano fregare il portafogli, cioè faccio un esempio. È assolutamente vero, nel senso che questa generazione millennium è una generazione che si fida molto di più del prossimo di quanto invece faccia la nostra. Oh, questa è la bella notizia, quindi cioè fondamentalmente c'è più fiducia quindi verso gli altri. Sì, c'è più fiducia verso gli altri perché esiste la rete. La rete un po' agisce come la piazza del villaggio, nel senso una piazza del villaggio si sa tutto di tutti, sì. Per cui appena uno sgarra immediatamente viene escluso dalla socialità del villaggio ed è esattamente quello che succede in queste web specializzate, non so, per esempio chi si presta il divano letto, ci sono dei punteggi sulle persone che danno in prestito il divano letto, questi punteggi vengono dati da chi viaggia, quindi chi usa questo divano letto. Ed è in un certo senso una sorta di garanzia che andando in questa casa sicuramente non si hanno problemi. Beh certo, un po' quello che succede anche per i siti che propongono gli alberghi, per esempio, siccome chi ha alloggiato poi può mettere un commento, se un albergo si comporta male o non offre quello che scrive sul sito di offrire, uno lo dice e quindi gli altri non si fidano più, perderà sicuramente clienti. Quindi è chiaro che il passaparola non è più tra me e il mio vicino, ma il passaparola diventa globale, quindi molto più impegnativo e interessante. Sì, infatti TripAdvisor è uno dei siti più visitati al mondo. Certo, ne abbiamo parlato infatti. Ed è gestito esclusivamente dai clienti. E tante volte uno fa un confronto tra quello che magari si dice su le web degli alberghi o anche su articoli di giornali e quello che dicono invece gli utenti, i clienti, sì. E c'è una differenza enorme. In più, molto interessante, che per esempio TripAdvisor i commenti più realisti sono quelli degli americani, perché gli americani sono quelli più esigenti, diciamo, dal punto di vista proprio del viaggio, dell'albergo, di come viene gestito e via dicendo. Ecco, quindi comunque sia, questa comunità nuova, questa economia del mutuo soccorso, come è sottotitolato l'articolo, è un'economia basata sulla fiducia, francamente, alla fine, e sulle relazioni sociali. Per cui il futuro in questo senso, come lo vedi, Loretta? Si amplierà questa cosa o resterà di pochi? Dunque, io devo dire, lo vedo abbastanza positivo. Ci sono due punti che secondo me sono fondamentali. Cioè, il primo punto è che questa generazione millennium è una generazione che è stata esclusa dal processo di produzione. Cioè, nel senso, il processo di produzione, siccome non li può assorbire, li considera esclusivamente come dei consumatori. Per cui loro che cosa hanno fatto? Hanno rovesciato completamente la situazione e si sono trasformati in consumatori produttori. Cioè, io ho una macchina, questa macchina la presto e te la offro, certo, l'affitto e via dicendo. Sì. L'altro elemento fondamentale è la dematerializzazione del prodotto, cioè nel senso, non mi serve più avere la macchina, mi serve utilizzare quel servizio che mi dà la macchina. E questo vale per tutti, vale anche per i CD. Questi non comprano più CD, scaricano direttamente. No, infatti, musica. Di questo poi si parlava anche questa mattina. Quindi tu comunque vedi che l'indirizzo, diciamo così, dove andremo è questo. E a me, insomma, onestamente, personalmente è un indirizzo che piace, anche perché sulla fiducia si devono basare i nostri rapporti, e speriamo che sia anche ben riposta. Loretta Napoloni, ti ringrazio molto. Ricordo anche il tuo articolo, appunto, il tuo ampio articolo su Wired di questo mese. Grazie ancora, ciao Loretta, buona domenica. Grazie, arrivederci. Grazie. Aggiornamenti sul traffico e poi cerchiamo di farci venire delle idee, cerchiamo di inventarci un lavoro. Strade in diretta. È momentaneamente chiuso il traforo del Fréjus per lavori urgenti in direzione della Francia, ma il traffico è scarso sull'intera rete autostradale, sulle principali strade. Occorre comunque prudenza per la nebbia in banchi, che ancora riduce la visibilità in alcuni tratti, sulla 3 Salerno-Reggio Calabria tra Polla e Buonabitacolo-Padula e sulla 13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Padova Industriale. Nebbia in banchi anche sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Al nord, nelle prossime ore, è previsto un peggioramento del tempo, con neve fino in pianura su Piemonte, Lombardia e Trentino. Alto Adige. Ricordiamo che lungo i tratti interessati dalle nevicate sono obbligatorie le gomme invernali o le catene a bordo. Ed è tutto, il prossimo aggiornamento di Strade in diretta tra mezz'ora. Il riposo del guerriero. Manuela, buona domenica. Buona domenica a tutti. Cosa volevi fare da grande tu? È una domanda che mi fanno spesso, non avrei mai pensato di dover scrivere un libro, perché così qualcuno mi chiedesse cosa volessi fare io. Ma tu avrai cosa. Ma tu avrai avuto, vogliamo, cioè, avrai avuto un desiderio da piccola, volevi fare qualcosa? Guarda, il mio grande desiderio sarebbe stato quello di lavorare per il mondo dei cartoni animati, per l'animazione, da piccola, sì. Poi ho capito che era in realtà una strada molto più lunga di quella che immaginavo allora, e soprattutto richiedeva tanta pazienza, tanta assiduità, non soltanto dal punto di vista del disegno, ma anche riguardanti altri aspetti che, sì, la volontà, che non mi sono sentita di affrontare. Ecco, Manuela, io credo, prima di entrare nel vivo del tuo libro, avevo una domanda che riguarda invece la generazione millennium. Tu hai ascoltato prima l'intervista, sì, la chiacchierata. Sì, ho ascoltato prima l'intervista, molto interessante. In realtà avevo anche tra le mani il numero di Wired, e sì, devo dire che è un argomento molto, molto affine. Tu anche pensi che... di far parte di questa generazione, in questo modo di comportarti, visto che comunque come anni ci sei, ma voglio dire, come atteggiamento, oppure sei ancora una che ama un po' il possesso delle cose? No, guarda, il concetto della condivisione mi appartiene abbastanza, devo dire, sì. Non il possesso è qualcosa che è legato indubbiamente alle cose più materiali e più personali, però per quanto riguarda soprattutto l'aspetto riguardante le informazioni, credo molto nella generosità intellettuale della nuova generazione. Allora, Manuela Longo ha scritto "Mi invento un lavoro, guida alle nuove professioni". Io comincerai dal declutterer, che sì, onestamente non conoscevo fino a che non ho letto pagina 45 del tuo libro. Beh, viene da una parola inglese molto famosa che è clutter, ed appunto spazzatura, ovvero tutto ciò che non serve. E il declutterer è una persona che con un certo metodo, quindi non semplicemente come si potrebbe immaginare fa una colfa a casa, no? Sistema degli ambienti togliendo via il clutter, quindi ciò che crea disordine, soprattutto ciò che in qualche modo inquina un pochino l'energia vitale all'interno. Ecco, però io mi immagino una persona, io voglio capire quale possa essere l'azienda che decida di assumere a questo punto penso a tempo determinatissimo, cioè per un certo periodo, un declutterer. Cioè io già mi immagino l'inserzione, cerco declutterer per mettere a posto gli uffici, funziona così? Allora, guarda, intanto ci tengo a precisare che tutte le professioni, la maggior parte delle professioni delle quali io parlo nel libro, sono delle libere professioni, quindi quasi mai qualcuno assume qualcun altro, nel senso che sono dei professionisti che si assumono la responsabilità e il rischio di aprire una partita IVA un pochino sui generis e quindi di proporsi poi ad eventuali clienti. Quindi sarebbe impensabile che un'azienda, per quanto molto grande o comunque possa avere una figura di questo tipo al suo interno. Sì, ecco, possa certo. averla di questo tipo. Però immagina comunque un'azienda enorme che trasferisce nell'arco di pochi giorni i propri locali in un'altra sede e che ha bisogno di sistemare le postazioni di tutti gli uffici, di tutti i dipendenti in pochi giorni in maniera metodica, in modo tale che tutti trovino quello che serve negli spazi in comune. Insomma, non è una cosa proprio no, certo, facilissima. È interessante, no? Ma mi domando anche se, per esempio, un amministratore delegato conosca questo tipo di mestiere, cioè sappia il fatto che c'è qualcuno disposto a fare questo e che addirittura ha una sorta di di qualificazione, cioè addirittura ha un nome questo mestiere. Ecco, il motivo per cui probabilmente facciamo questa intervista, per cui ho scritto il libro, per cui continuo ad andare comunque in radio e in televisione per parlare di queste professioni è proprio per cominciare a descriverle, dare ad esse un nome che poi diventerà diciamo il nome standard e vedremo che comunque educheremo le persone a conoscere anche delle professioni che all'estero sono note, sono in qualche modo anche regolamentate, perché sai che c'è una scuola e un'associazione di declutterer comunque nel resto del mondo. Assolutamente. Quindi queste no. professioni non nascono dal nulla, queste professioni esistono, bisogna che prima ancora che le aziende possano chiamarle a lavorare, che ci siano le università, che ci siano i corsi di formazione, che si informino, che si adeguino e che quindi facciano nascere dei corsi chiamandoli appunto corsi per declutterer. In questo modo si comincia a creare un pochino la cultura intorno a professioni che in Italia non esistono. Chi è l'etiquette coach? L'etiquette coach è un coach, appunto, oggi questa parola invece è diventata molto famosa, quindi un consulente per quanto riguarda l'etichetta, ovvero le buone maniere, soprattutto buone maniere a livello internazionale, quindi si tratta di un professionista che forma i manager piuttosto che altri professionisti ad andare in qualche modo a trattare con l'estero senza fare brutte figure. Sappiamo molto bene che l'etichetta cambia di paese in paese e spesso anche nel mondo degli affari ci si trova a relazionarsi con persone che hanno una cultura e dei modi di fare diversi da questo nostri. È molto interessante, per esempio, questo molti politici ovviamente le hanno le persone, non le chiamiamo nello stesso modo, però svolgono questo mestiere, perché devono conoscere, preparano proprio durante il viaggio, preparano la persona che poi dovrà tenere una conferenza o dovrà vedere industriali, faccio un esempio, li preparano a come comportarsi, cosa dire, cosa assolutamente non dire. Esatto, no. Esatto, sì, questa professione in qualche modo già esiste, io volevo semplicemente comunque ricordare che ci sono dei corsi di formazione specifici e soprattutto che nel settore del coaching, che è preso un pochino d'assalto ultimamente perché lo si considera quasi un qualcosa a metà tra il marketing e la psicologia, è molto importante specializzarsi se si vuole lavorare, perché altrimenti c'è una concorrenza spesso anche molto improvvisata. Ecco, il personal concierge mi piace, cioè il portinaio personale, tradotto proprio letteralmente. Sì, è una figura però che si è spostata spostata anche questa molto nelle aziende. E più che lavorare a casa, il concierge ora lavora nelle aziende, appunto, il cosiddetto maggiordomo aziendale, ed è considerato un benefit. Questo davvero le aziende possono tenerlo anche interno, ed è una persona che svolge le piccole commissioni per i dipendenti. In pratica fa il giro delle scrivanie a raccogliere quelle che sono le incombenze quotidiane che non si riescono ma a... Ma scusa, ma del tipo proprio fammi la spesa, ho bisogno della frutta e della verdura? Ho bisogno di andare a ritirare il capo in tintoria piuttosto che fare la coda alla posta. E oggi che gli orari di lavoro sono diventati molto fluidi e soprattutto le donne hanno bisogno di qualcuno che faccia le cose al loro posto, potrebbe diventare sicuramente un benefit, a volte anche più gradito di ma sicuramente, certo, perché comunque ti toglie via un impiccio per molti, per chi vive solo per esempio è un grave impiccio, no? Quello di non poter andare a ritirarsi una raccomandata o fare una cosa dove bisogna essere proprio presenti. Ma guarda, la cosa più utile del presenti. Mondo può essere veramente andare a prendere figli a scuola, ad un orario in cui molte persone non riescono davvero a smettere di lavorare o prendersi una pausa pranzo. Immagino che una grande azienda ce ne sia bisogno di più di uno, perché gli orari poi coincidono, è tutto più difficile. No? Sì, però sarebbe comunque una cosa abbastanza interessante anche a livello occupazionale, riuscire ad avere diciamo un benefit vivente da assumere, così che poi ci si toglie il pensiero. Hai 40 secondi di tempo per dire chi è munito di telefono, pentola, fotocamera e salvadanaio può fare il cake decorator, ovvero? Il cake decorator è una persona che si occupa unicamente di torte scenografiche, quindi torte da decorare, torte per matrimoni, torte un pochino il Walt Disney della... Ma mangiabili, mangiabili, commestibili, sì, ok. Mangiabili, perché l'altro mestiere invece è l'economist, che crea delle torte, per esempio, ma non masticabili, non mangiabili, che servono per rimanere solide, esatto, dura sotto le luci delle fotografie, ma questa, esatto. Questo è un altro mestiere che c'è anche da moltissimi anni. Grazie Emanuela Longo, mi invento un lavoro, guida alle nuove professioni, Morellini editore. Ciao, grazie Emanuela. Ciao. Continuiamo a parlare di lavoro nel riposo guerriero tra pochissimo con chi un'idea se l'è fatta venire e anche un'idea di successo. Il riposo del guerriero. Le 11:08 minuti, intanto grazie per i vostri messaggi, anche le proposte, le... puntualizzazioni. Per esempio Nino di Modena scrive: dare e ricevere passaggi è vietato dal codice della strada, ma sono d'accordo sull'aspetto di aiuto reciproco anche in funzione ecologica. Non ho parlato dell'aspetto ecologico della generazione millennio, ma in realtà c'è un'ampia parte dedicata proprio a quell'aspetto. E sul fatto di ricevere o dare passaggi, credo, se non mi sbaglio, che sia vietato solo in autostrada e nelle aree di sosta, appunto l'autostrada e nelle corsie di emergenza e anche negli autogrill, ma non nelle strade delle città, da quello che ricordo io, poi potrei ovviamente sbagliarmi, però grazie per la puntualizzazione. E poi invece c'è un messaggio di Giuseppe, volevo leggervelo perché è un formatore e lui dice: io denuncio che le difficoltà per i giovani oggi in Italia sono dovute soprattutto alla demagogia della generazione mia, che ha bloccato la semplice successione tra le generazioni, come invece è avvenuto in altri paesi. Abbiamo parlato di creatività, perché nel lavoro bisogna essere creativi, inventarsi delle cose. Io nel libro di Emanuela Longo, Mi invento un lavoro, ho cercato, ma non ho trovato assolutamente il wedding dancer. Enrico Pronzati, ciao, buona domenica. Buongiorno, buona domenica anche a te. Ciao, tu ti sei, non dico inventato, perché in realtà l'hai copiata, però l'hai portata in Italia, la wedding dance, cioè la danza del matrimonio. Cos'è? Una danza beneaugurante? No, non sto scherzando, ma come funziona? Guarda, tutto nasce da, praticamente è quasi uno scherzo, nel senso che un giorno parlo con una mia amica che è stata a un matrimonio a New York, e quando torno in Italia mi dice: il giorno che mai mi sposerò tu dovrai farmi una coreografia sulla musica di Dirty Dancing. Ah, quindi ho detto a un certo punto: tu sei matta. E poi lei a un certo punto mi dice: no, ma guarda che ci sono in giro dei video, soprattutto negli Stati Uniti, in Inghilterra va molto di moda questa cosa dei wedding dance. E io a questo punto ho iniziato un po' a informarmi, a guardarmi un po' su internet, e ho visto che effettivamente ci sono parecchie persone che al matrimonio fanno o il ballo classico oppure si inventano delle vere e proprie coreografie, magari anche su film famosi, fatti da loro o anche dagli amici. Sì. E a quel punto lì Hai detto, metto in piedi una struttura per insegnare agli sposi e agli invitati una danza legata magari a una canzone che vogliono, specifica. Sì, infatti, perché poi alcune volte ci può essere una canzone che magari ricorda la prima volta che si sono visti, la sera che hanno magari lui ha chiesto a lei di sposarsi, quindi ci sono dei momenti particolari e noi abbiamo detto, visto che gli sposi pensano già a qualsiasi cosa, all'abito, al pranzo e tutto, ci si dimentica a volte di questi tre minuti del primo ballo poi, che in alcuni casi può essere quello tradizionale, oppure, come è capitato, alcune volte possono essere gli invitati stessi che vogliono fare una sorpresa agli sposi e decidono di inventarsi una coreografia poi da presentare agli sposi. Ecco, quindi gli sposi sono ignari di tutto in quel caso, ovviamente. E gli italiani, infatti, come hanno preso questa novità? Ma subito, io ho detto, sarà un po' difficile riuscire a portare questa cosa qui in Italia. E alla fine, invece, ho scoperto che ci sono tanti italiani che hanno voglia di portare un po' di originalità nel loro matrimonio. E infatti io che pensavo a questo come uno scherzo, alla fine sta avendo un grande successo. La cosa naturalmente mi fa molto felice. Quanto costa preparare una wedding dance? Cambierà, immagino, però in linea di massima. Guarda, cambia, dipende poi naturalmente se si è una coppia soltanto oppure se si è un gruppo di amici, però pensa, calcola che noi mediamente impieghiamo 7 ore per mettere insieme un valzer, non vai a superare le 300 euro. Ah, quindi non è neanche una cifra, voglio dire, che non si possa affrontare per un evento così speciale poi come il matrimonio. E quindi poi voi darete, immagino, anche gli spazi per poter provare, perché andranno anche provate queste cose, immagino, no? Certo, tu calcola che quando è partita questa idea veniva tutta realizzata all'interno di una sala di una palestra. Poi le richieste sono state talmente tante che siamo dovuti arrivare al punto di aprire una vera sede dove abbiamo questi spazi dove le coppie possono venire lì a provare le loro coreografie, perché le richieste erano ormai così tante che alla fine abbiamo dovuto attrezzarci anche noi. Quindi da scherzo sta diventando effettivamente un lavoro. Quando ti sposerai, quale canzone sarà il sottofondo della tua wedding dance? Qua, bella domanda. Guarda, faccio il banale, replico Dirty Dancing. Va bene, ok, così almeno hai già il video su internet, la coreografia non è difficile. Enrico Pronzati, grazie, bravo per l'idea, weddingdance.it il sito. Buona domenica, ciao. Grazie ciao. Enrico, ciao. E continuiamo a parlare di lavoro. C'è Antonio Luce, psicologo esperto del linguaggio della menzogna, che ha scritto il colloquio di lavoro, tutto ciò che occorre sapere per affrontarlo nel migliore dei modi. Antonio Luce, buona domenica. Buongiorno a tutti. Allora, cominciamo intanto per apertura, diciamo così, perché tra poco avremo il traffico, poi continueremo a chiacchierarne, col dire fondamentalmente che ci sono dei profili comportamentali, cioè noi siamo qualcosa quando ci proponiamo un colloquio di lavoro. Sì, io nello scrivere questo testo, dopo aver consultato già quello che c'era sul mercato, ho cercato di mettere in evidenza come ognuno di noi quando cerca lavoro deve mettere in primo piano quelle che sono le reali caratteristiche che ci sono. Non inventarsi curriculum che poi dopo, quando si va davanti all'esaminatore, l'esaminatore esperto sa cogliere quello che realmente c'è dietro un curriculum scritto in un certo modo. Certo, quindi lì già ci siamo spacciati, voglio dire, nel momento in cui abbiamo finto siamo spacciati, immagino. Sì, perché poi effettivamente, ecco perché la sincerità su quelli che sono i nostri veri punti di forza è uno degli aspetti secondo me importanti, e per questo nel capitolo 3 del mio libro ho dato molta importanza alla comprensione di queste tipologie psicologiche che sono il guerriero e la persona crocerossina. Allora aspetta, Antonio, il tuo programma non è stato scelto a caso. Aspetta un secondo, Antonio, scusami, ti interrompo per dare il traffico, perché così appena dopo parliamo dei quattro, ecco, dei due, no, sono quattro, giusto, scusami, dei quattro profili comportamentali. Stavo guardando qui il grafico e mentre parlavo cercavo di mettermi e inserirmi in una delle quattro tipologie, poi vedremo dove potrò incastrarmi. Strade in diretta. E dopo le partenze del lungo ponte dell'Immacolata tra venerdì e sabato, oggi il traffico si presenta regolare sulle autostrade e sulle principali strade in Italia. Prudenza però per la nebbia in banchi, che riduce ancora la visibilità sulla 3 Salerno-Reggio Calabria tra Polla e Buonabitacolo-Padula e sulla 13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Padova Industriale. Al nord nelle prossime ore è previsto un ulteriore peggioramento del tempo con neve fino in pianura su Trentino Alto Adige, Piemonte e Lombardia. E da oggi a Milano prende il via la fiera degli Obei Obei nella zona di Piazza Castello Via Gadio. Fino a mercoledì 8 dicembre sono previste deviazioni di percorso per i tram della linea 4 e per gli autobus delle linee 57, 94 e 301. Ed è tutto, Strade in diretta torna tra mezz'ora. Il riposo del guerriero. Piccola parentesi, un messaggio sul wedding dance, dice: ma è troppo pacchiana quest'idea, altro che originalità. No, invece l'originalità assolutamente c'è, poi il fatto che sia pacchiana o meno ognuno giudicherà come vuole, e poi insomma uno decide di sposarsi come intende. Allora, Antonio, appunto, il libro Colloquio di Lavoro, stiamo parlando dei quattro profili comportamentali. Fondamentalmente scrivere un curriculum o presentarsi in modo sbagliato, cioè non essere noi stessi, non funziona, dobbiamo cercare di evitare la menzogna. E adesso appunto vediamo quali sono questi quattro profili. Allora, intanto le persone vengono catalogate secondo due grosse macro categorie. Una, la categoria del guerriero o della persona crocerossina, e la seconda catalogazione è la persona riflessiva oppure la persona emozionale. Ecco perché componendo c'è il guerriero riflessivo e il guerriero emozionale, e poi c'è la persona crocerossina emozionale, la persona crocerossina riflessiva, ecco perché poi i profili diventano quattro. Ora, questo è uno screen molto veloce per quanto riguarda in che cosa è importante, così diamo ai telespettatori una cosa, diciamo, semplice da comprendere. Tutti quanti noi abbiamo un emisfero sinistro e un emisfero destro, quindi una parte creativa e una parte emozionale. Quella che dobbiamo tenere presente è che ce n'è una che è maggioritaria sull'altra, e quindi ci sono persone che in genere, facendo un esempio, prima fanno i danni e poi si pentono, e ci sono le famose persone che si fanno le segmentali, che pensano e poi il treno passa. E sì, certo, ecco, e non lo prendi più, e ciao. Questo è un po' lo spaccato tra la persona emozionale e quella riflessiva. Allora, queste due tipologie, che sono molto importanti, io durante le interviste cerco di chiarire questo punto, così qualcuno può identificarsi e già cominciare a scrivere, certo, un curriculum in maniera un pochettino più confacente alla propria tipologia. Sì. Qual è? La persona emozionale è una persona che a tempo reale risolve i problemi. Quindi qual è una cosa da mettere in evidenza su un curriculum? Che io, nelle mie esperienze di lavoro passate, è stato, diciamo, fatto qualche complimento, perché quando si presentava un problema io non andavo in pala, subito risolvevo il problema, poi certe volte la risoluzione sì, però si affronta non ponendone un altro, per esempio dicendo no, non è possibile, ma subito cercando una soluzione. Quello è un atteggiamento, ovviamente. Ci sono invece i riflessivi, sì, che sono più bravi a programmare il lavoro sia di se stessi che degli altri. Quindi la persona che in genere pensa, cosa dovrebbe dire nel curriculum? Che nelle esperienze passate è stata fatta qualche complimento, perché di tutti i piani a 3 anni o a 3 mesi che venivano fatti tra lei e le sue colleghe, lei è stata quella più brava. Ecco. Perché è proprio un'attitudine che hanno i riflessivi, perché loro prima di fare un passo pensano, e quindi hanno nella loro attitudine, da quando sono bambini, da 5 anni in su, questo modo di sviluppare determinate cose. Ecco, Antonio, quindi tu dici che noi comunque sappiamo, possiamo fare anche dei test, possiamo confrontarci, sappiamo dove inserirci in queste quattro tipologie, immagino. Infatti nel terzo capitolo io ho costruito un test di valutazione, di autovalutazione, sì, per cercare, oltre che nella spiegazione di che cos'è effettivamente una persona riflessiva o emozionale all'interno di questo, di questa codifica, quindi si fanno diversi esempi, come ci sono un'altra cosa che semplifica molto. In genere l'emozionale è il vecchio artigiano, quello che riesce, guardando qualcun altro, a rubargli il mestiere. Invece il riflessivo è quello che deve prima studiare, cioè ha bisogno di comprendere i meccanismi per poi fare. E poi applicarli. Ecco. E poi applicarli. E dicevo, ecco, quindi questa tu... è una cosa importantissima, perché tutte le scuole artigianali, le scuole tecniche, prima si parlava tanto di lavoro, di ricerca di lavoro, oggi sono molto ricercati i tecnici. cioè le persone che hanno questa che si chiama intelligenza manuale, cioè che la teoria e la pratica sono fuse. Questa è una caratteristica che hanno più gli emozionali che i riflessivi. Ecco. Invece in un'azienda che deve fare una programmazione di budget, deve valutare dei numeri, i riflessivi sono è più interessante. Più ecco Antonio, purtroppo il tempo è finito, però è molto interessante capire cosa scrivere in un curriculum, perché a volte si ferma davvero alle esperienze fatte, non fatte, le cose, invece quindi per tirare le somme, scrivere anche una parte emozionale nel curriculum, dove per emozionale intendo dire caratteriale, di atteggiamento, funziona. Sì, omettendo quelle che possono essere le nostre peculiari, le cose negative, quelle le troveranno su internet, quelle poi positive. Certo, questo sicuramente. Questo è, io dico, scriviamo un curriculum che sia confacente e enfatizziamo quello che realmente sappiamo fare, e la conoscenza, in questo caso, della psicologia di se stessi, di come noi funzioniamo, può essere, secondo me, un'arma vincente in questo momento dove la ricerca del lavoro è enorme. Certo, ed è molto interessante anche l'aspetto che sei riuscito a far emergere. Grazie Antonio, buona domenica. Grazie a voi. Antonio Luce, il libro Il colloquio e il lavoro, tutto ciò che occorre sapere per affrontarlo nel migliore dei modi. Io mi scuso con Giorgio Piccinino, un sociologo, uno psicologo e psicoterapeuta, ha scritto un libro molto bello, secondo me molto interessante, che cercherò di raccontargli in una prossima puntata del Riposo del Guerriero. Credo che il lavoro fondamentalmente sarà ancora argomento di discussione, perché ha scritto questo libro, si intitola Il piacere di lavorare, viaggio in se stessi per ritrovare la passione del fare, perché ritengo che anche chi ha un lavoro debba trovare sempre l'entusiasmo per affrontarlo ogni giorno. È un aspetto che non sono riuscito a inserire nel riposo di oggi, ma che sicuramente vorrei toccare, però volevo intanto dirvelo perché magari qualcuno è interessato proprio a conoscere anche questo aspetto, ovvero quello di trovare il sorriso nella quotidianità del proprio impegno lavorativo. E siccome sono le 11:22 è arrivato il momento comunque di far lavorare, diciamo così, il nostro gusto, il nostro palato, cioè il gastronauta. Il gastronauta. Davide Paolini, ciao, buona domenica. Buona domenica a tutti. Come si sta a Modica? Beh, a Modica si sta molto dolci, diciamo, molto dolci, molto, perché come tutti sanno, va bene, qui c'è questo cioccolato di Modica che da anni è un po' alla ribalta, e questa storia bellissima, affascinante, degli spagnoli che attraverso gli aztechi portarono questo cacao, queste fave di cacao in questo delizioso borgo siciliano. E di lì nacque una lunga storia che fino ai giorni nostri, quindi ormai sono centinaia di anni, e ad esempio la dolceria Bonaiuto compie oltre 100 anni. Ho detto dolceria perché in questa area del Ragusano, se qualcuno nomina il pasticceria, viene messo al muro, nel senso che ci tengono a chiamarla dolceria e non pasticceria, per prendere il distinguo da tutti il resto tutti del mondo, altri. Quindi un fatto importante di orgoglio. Però volevo segnalare che sì, qui, oltre questo straordinario cioccolato di Modica, appunto, che ha questa storia affascinante, anche questa dolceria appunto ha questa storia centenaria, vorrei ricordare che qui è la zona dei carrubi, e io sono un amante delle carrube. E però qui c'è un particolare, che questo cioccolato, quando c'è la cioccolata in tazza di Modica, bisogna inzuppare il biscottino di farina di carrube, e secondo me è un abbinamento straordinario. E tra l'altro è una cosa che non ho mai provato. Senti, il cioccolato di Modica ha un modo di essere prodotto molto particolare, ovviamente, e lo si trova spesso in tanti gusti diversi, nel senso che viene speziato con la cannella piuttosto che con altre spezie, col peperoncino per esempio. Ce n'è uno fra tutte queste componenti che ti piace in modo particolare, o c'è proprio il vero cioccolato di Modica, magari, che non deve avere nessun tipo di gusto se non quello del cioccolato? Ecco. Bah, innanzitutto diciamo che è un cioccolato diverso dagli altri, perché diciamo viene preparato a freddo, non c'è la fase del concaggio e viene aggiunto zucchero, quindi diciamo che è completamente diverso. Infatti lo si sente lo zucchero in bocca proprio, no? Ecco. Si sente, perché è l'unico, poi c'ha un ritmo tutto particolare. Certo che diciamo che l'originale sarebbe con la cannella, perché è stata come la prima fase, insomma. però poi ultimamente, non ultimamente, negli ultimi 20 anni insomma, è emerso anche questo cioccolato al peperoncino che sicuramente è eccellente, è stato copiato un po' ovunque, ormai tutti fanno il cioccolato al peperoncino e quindi sicuramente ha avuto, come posso dire, la fase di leadership, di innovare questa strada. Io, a dire il vero, amo molto il cioccolato, la cioccolata in tazza, mi piace molto perché è una bevanda che trovo energetica, ma qui vorrei fare una notazione. Anni fa una studiosa di Oxford ha scoperto che il segreto di Casanova era bere 40 tazze di cioccolata calda di Modica per sfamare così le sue belle donne che lo attorniavano. E però non è tanto una leggenda, perché se si va a riscoprire nei testi storici si parla che l'imperatore di Montezuma, cioè appunto da cui parte il cacao, le fave di cacao, certo, che, sì, arrivano poi a Modica, e in realtà sembra che bevesse tazze a go-go perché aveva un harem immenso, quindi perché no, può darsi che sia un Viagra antico ma sempre attuale. Chissà allora i file di WikiLeaks cosa diranno su di te se dovessero scoprire qualcosa. Sì, ma io non faccio i party a ripetizione, perché sicuramente non ho quella resistenza, perché 40 tazze tutti i giorni non lo so cosa possono portare poi di infiammazione. Esatto, bisogna vedere anche il rovescio della medaglia. Sono delle controindicazioni. Insomma. Senti Davide, l'abbiamo detto tante volte, ma ribadiamolo, nel senso che ti voglio chiedere se a fine pasto, così io dovessi presentare in tavola il cioccolato di Modica che mi porterai sicuramente da Modica, certo, che cosa gli abbiniamo per gustarlo bevendo del vino? Se va bene, ovviamente, magari no, ecco, non so. Sì, io devo dire che se si tratta di cioccolato lavorato in un dessert sono molto favorevole. In un cioccolato come quello di Modica, sì, cioè io un vino non gli abbinerei, tutto più probabilmente un porto, o perché no, anche un Marsala vergine, probabilmente, un Marsala italiano, come dice De Bartoli, non vergine, un Marsala italiano, quindi, però io sarei proprio per sgranocchiarlo così, mentre se dentro, mentre se viene utilizzato nei dessert, allora è tutt'altra cosa, allora sì, si possono fare tantissime tipologie di accostamenti. Abbinamenti. Quello col peperoncino è molto duro da abbinare, non è semplice, e quindi anche quello lì sicuramente un ottimo porto non va male. Potrebbe andare. Senti, invece se dovessi portare via, diciamo così, una sporta con qualche bottiglia di vino di quelle zone, che cosa sceglieresti? Beh, sai, nel Ragusano c'è qualche Nero d'Avola, diciamo nella zona di Modica, quindi è una zona sicuramente di Nero d'Avola. Però scusa, torno indietro un secondo. Sì, come no. Sull'abbinamento metterei anche il Barolo Chinato. Eccolo là. Che secondo me è eccellente. Uniamo il nord al sud proprio. Sì, sì. Dicevo che quella zona lì ci sono dei Nero d'Avola importanti, cioè non molto distante c'è Chiaramonte Gulfi, dove ci sono degli ottimi vini, una zona degli ottimi vini, e soprattutto quella zona lì è una zona straordinaria per quanto riguarda gli oli d'oliva extravergine. Una zona veramente fantastica, lì c'è la Nocellara del Belice ed è veramente fantastico secondo me gli oli d'oliva che ne emergono. Bene, allora Davide, io ti lascio le tue cioccolate, non so se riuscirai ad arrivare a 40 al giorno, ma ti auguro di sì. No, beh, te ne porterò qualcuno, magari ne lascio qualcuno per te. Va bene, grazie, ciao, alla prossima. Ciao, a presto. Sono il 1254, risolvo problemi, anche impossibili, come trovare sagre della ciliegia in inverno e negozi aperti la domenica. Chiama il 1254, informazioni, assistenza, numeri per risolvere ogni tua esigenza. Costi su 1254.it. Gamma Citroën approvata a 4 ruote, Euro 5, ESP, 5 anni di garanzia e al quarto anno in Citroën, valutazione del 10% in più sulla quotazione 4 ruote. E adesso il tuo usato vale il 10% in più. Se ne è parlato così tanto che abbiamo deciso di prolungare l'operazione approvata a 4 ruote anche per il mese di dicembre. Scopri 18 modelli della gamma Citroën approvata a 4 ruote, prezzi bloccati fino al 31 dicembre. Info su citroen.it. Palleggio frenetico, passaggio corto, palla che schizza a destra, a sinistra, in alto, no, in basso, fallaccio. La palla vola, finta di corpo, all'ala, al petto, magico recupero a centrocampo. L'ha recuperata, ma dove va? Dove va?

pochi molti anni da questo grande successo di Raff. Simona da Verona, buona giornata. Buongiorno, ciao. Niente, io pensavo... Subito che... così, di botto, sì. 1000 euro, non li facciamo cadere, va bene. Prendiamo fiato. Sì. Sì, pensavo che quando è nata la figlia della Nannini, lei ha dichiarato che Dio è di genere femminile. Grazie Simona, brava. Prego. Per l'associazione, chissà, magari 1000 euro sono tuoi. Speriamo. Lo scopriremo tra 24 minuti. Ciao Simona, grazie, buona giornata. Gianni da Roma, buona giornata a te. Sì, ciao, buongiorno. Com'è a Roma? Come il tempo? No, sai, te lo chiedo perché qualche giorno fa ero a Roma, a Milano nevicava, a Roma c'era il sole, faceva un caldo, stava benissimo. Caldo, insomma, in questa stagione però c'era caldo, 14-15-16 gradi, per me è caldissimo. E allora devo capire se oggi magari, no? Oggi è nuvolo con tendenza al peggioramento. No, voglio dire, perché se no mi arrabbio. Allora Gianni, a parte questa divagazione, e che cosa... vuoi fare? Ascoltare un altro indizio, scenderemo a 500 euro oppure dare una risposta? No, io penso che sia il personaggio. Sì. E ho pensato a Monicelli. Non dico niente, grazie Gianni, ciao, buona grazie, domenica. Ciao. Sara, dalla provincia di Parma, siamo ancora a 1000 euro, Sara. Magari sì, no, perché qualcuno ha indovinato, magari sì. Dunque, io vorrei ascoltare un altro indizio. Allora scendiamo a 500 euro. Con un body al balconcino che ti tiene su, un seno che così non si era mai visto prima. Sei un mito, sei un mito per me. Sono anni che ti vedo. Eccoci qui, allora questo è il secondo indizio, siamo a 500 euro, Sara. Avrei riconosciuto la canzone, immagino, sono gli 883. Dovrei dire l'883, cioè nel senso uno solo, perché è rimasto solo Max Pezzali, ma comunque, Sara. Allora, io dico il calendario Pirelli, il nuovo calendario Pirelli. Grazie Sara, buona domenica, ciao. Giancarlo da Cuneo. Siete tanti qui oggi. Giancarlo, allora buona giornata. Pronto? Giancarlo? Pronto? Eccoci qua, Giancarlo da Cuneo. Sei tu? Sì. Sì, io ho un altro indizio perché non so cosa dire. Chiedi un altro indizio perché non sai cosa dire. Allora cerchiamo di trovare una risposta con il terzo indizio e scendiamo a 300 euro. Aspettavo che lo dicesse perché insomma questo poi è la chiave di volta di tutta la canzone, il Michael Jackson, il terzo indizio, Stranger in Moscow, lui dice mi sento come uno straniero a Mosca, e questo è un po' come An Englishman in New York, no, di Sting, in qualche modo si assomigliano le cose. Allora Giancarlo, io ti lascio pensare, dopo questo terzo indizio siamo a 300 euro, gli aggiornamenti sul traffico e poi mi darai la tua risposta. Tutti pensano che noi fatto grande cosa con Betulla, invece i nostri migliori risultati noi avuto con Peluche. E che avete fatto? Le librerie di Peluche? No, noi con Peluche fatto banchi di scuola, lettini, libri, case. Eh già, tutto con i Peluche. Eh sì, perché? Vabbè, almeno saranno più morbidi da montare. Quest'anno, per ogni Peluche che acquistate fino al 6 gennaio 2011, IKEA dona un euro all'UNICEF. Così con un regalo per il vostro bambino fate sorridere tutti i bambini del mondo. IKEA.it. Strade in diretta. 11:46 minuti, il traffico al momento scorrevole sulle autostrade e sulle principali strade, non ci sono particolari difficoltà da segnalare. Attenzione alla nebbia in banchi che riduce la visibilità ancora sulla 3 Salerno-Reggio Calabria tra Polla e Buonabitacolo e sulla 13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Padova Industriale. E nelle prossime ore al nord è previsto un peggioramento delle condizioni meteo con neve fino in pianura dal pomeriggio sera su Trentino, Piemonte e Lombardia. Vi ricordiamo infine il numero verde per le vostre segnalazioni sul traffico 800 08 36 22. Noi torniamo tra mezz'ora. Promo 24. Da Poste Italiane nasce Poste Impresa, una rete di uffici dedicati con personale esperto in soluzioni su misura per tutte le esigenze di imprese, professionisti, associazioni e pubblica amministrazione locale. Oltre 500 uffici dedicati esclusivamente alle imprese per offrire servizi di gestione finanziaria, prodotti postali, bancari, assicurativi, di telefonia mobile, servizi online e articoli per l'ufficio. Gli uffici blu di Poste Impresa sono presenti su tutto il territorio nazionale, con personale in grado di fornire informazioni sui servizi per ogni specifico settore di attività. Per informazioni 800 160 000 oppure poste.it/posteimpresa. Un mistero in 24 minuti. Giancarlo, allora, abbiamo avuto un po' di tempo per pensare. Il calendario di Rally, che la soluzione l'hanno già detta, penso. L'hanno già detto, sì. Hanno detto anche tante altre cose. Dimmi. Sì, provo a dire i mondiali che sono stati assegnati alla Russia, anche se penso che però sia il calendario Pirelli. Eccoli lì. Grazie, grazie Giancarlo. Ciao, buona giornata. Buona domenica. Paolo. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Caspita. Paola, che bello se tutti i misteri fossero così, eh? Se tutti i misteri avessero un tempo e tu sai che entro quello lo indovini. Allora, Paola, abbiamo già 3 indizi, 300 euro. Cosa vogliamo fare? Mi sono persa il concorrente di prima, che risposta ha dato? E i mondiali assegnati alla Russia. Ah. Allora, io avevo pensato una cosa che però in parte è già stata detta. Io dico la presentazione a Mosca del nuovo calendario Pirelli, la notizia. Bene, è una giusta divagazione sul tema, diciamo così, è un'alternativa interessante. Grazie Paola, buona Prego. Giornata. Ciao. Ciao, grazie. Abbiamo Marina dalla provincia di Reggio Emilia. Ciao. Ciao Marina, buongiorno. Buongiorno. Io sai che ho 300 euro qua per te. Me li fai risentire? Va bene, eccoli qua i 3 indizi. Eccoli qua, oggi un di no no di Raff, sei un mito degli 883 e Stranger in Moscow di Michael Jackson. Sono indeciso tra due, se non l'hanno già detto provo a dire Mario Monicelli. Il fatto che l'hanno già detto, Marina. Ah, allora posso cambiare? Sì, beh certo, l'hanno già detto, quindi puoi tranquillamente cambiare. Allora le rivelazioni di Wikileaks. Eccole lì. Tu sai dov'è lui? No, lo stanno cercando. Ma magari sanno benissimo dove sia. Ciao Marina, grazie. Ciao. Giovanni da Milano, buongiorno. Pronto, buongiorno. Ciao Giovanni. Allora, ciao. Abbiamo 300 euro qua, guarda. Io avevo pensato all'anniversario della morte di John Lennon, trentennale, che sarà mercoledì. E quello, tu dici, quella è la risposta. Potrebbe essere, non so se ho pensato quello. Ma il concetto è che se il trentennale è mercoledì prossimo, potrebbe essere la risposta del prossimo mistero. Tu mi sei avanti di una settimana. cosa devo. Ormai. Tu mi sei avanti di una settimana, però. Bravo, devo cambiare il mistero di settimana prossima, quindi. Ma davvero, non ti vince niente però. Non sto allora. Scherzando, no niente, no. Hai, diciamo che hai letto nella sfera, però quindi cambieremo il mistero di settimana prossima. Ah, va bene. Sappiamo già cosa non sarà a questo punto, grazie, ciao Giovanni. Grazie. Ciao. Magari poi faccio lo scherzino. Silvana da Cuneo, buona giornata. buona giornata. Ciao Silvana, hai visto? Abbiamo anche gli ascoltatori che adesso anticipano le risposte del... È vero, ma anch'io ci ho pensato, però... Vedi. Quindi avevo anticipato anch'io, anche sono tu. Mio proprio. Va bene, tanto avremo una puntata particolare, tutta particolare. Sulle previsioni, per cui preparatevi perché l'anno nuovo sarà tutta sulle previsioni, ne avremo perfetto. Di ogni. Allora, io ovviamente una cosa, l'hanno già detta, quindi dico gli affari personali di Berlusconi con Putin. Direi una notizia proprio di vera attualità. Grazie Silvana. Prego. Ciao, ciao. Buona giornata. E bravi, siete intanto molto bravi, devo dire, nel risolvere il mistero. Gian Domenico, da Bari. Ciao, mi ha appena bruciato. Ti sei scottato quindi? Sì, volevo salvarmi con il mitico premier, però dico il consigliere di Padova, che è l'altro geniale consigliere che non vuole che sovvenzionare la maratona perché vincono sempre gli africani. Grazie Gian Domenico, ti rifarei con una stracciatella visto che sei a Bari e che puoi godertela. Beato te, ciao. Ciao. Buona domenica, ciao. Sempre a Bari restiamo, c'è Nunzia. Sì. Ciao Nunzia, buongiorno. Buongiorno. Io ho pensato al nuovo partito che è stato fondato a Milano, la Nuova Milano, il Partito Islamico. Come mai, Nunzia, hai fatto questa associazione? Beh, per il primo indizio, veramente. Ah, soltanto su Oggi un Dio non ho, quindi sì, quello di Rafa. Mi ha portato a quello, poi gli altri non... No, più o meno, però quello mi ha portato a pensare a questa risposta. Grazie Nunzia. Grazie. Arrivederci. Buona giornata, grazie. Grazie. Devo dire che siete diventati sempre più bravi a scovare, diciamo così, gli indizi, a capire che cosa si nasconde dietro i titoli o dietro i nomi dei cantanti o magari il senso dei testi, perché ultimamente state portando a casa dei bei premi. Brava Sara da Parma. Pronto? Ciao Sara, eccoci qua. Ciao. Sono molto contenta. Sei molto contenta, brava. Allora, la risposta è proprio quella, è il calendario Pirelli. Come ci sei arrivata? Allora, guardando le foto, dimmi la verità. No, non le ho ancora viste. Perché ci sono anche gli uomini, lo dico per quello, non ci sono solo le donne. Letto, ecco. L'ho letto. No, più che altro per ero indecisa, però poi la canzone di Michael Jackson anche mi ha dato insomma un po' la conferma. Ma tu sei arrivata prima di Michael Jackson? Sì, però ero indecisa quando ho dato la mia risposta, perché ero indecisa anche fra questo e il principe William. E allora ho detto, vabbè, proviamo il mito, dato che le fotografie sono ispirate ai miti greci. È vero, giusto, sì. Si chiama Mythology, infatti il calendario si chiama Mythology. Oggi non ho, perché ovviamente sono tutti dei quelli rappresentati, esatto, nelle fotografie. Ah, quindi quando... mi ha fatto ben sperare questa cosa di Michael Jackson. Certo, quando hai sentito, esatto, il terzo indizio, detto ho vinto io. Infatti 500 euro sono per te. Brava Sara, complimenti. Grazie. Ciao. Grazie. E ricordo, ciao, a tutti che grazie al nostro sito, andateci, se volete fare acquisti sulla Feltrinelli, c'è un codice da inserire che è la Feltrinelli 24 per avere un buono sconto da 5 euro per acquisti superiori ai 49 euro. Questo vale per tutti ed lo sconto fra l'altro è anche cumulabile e valido fino al 31 dicembre. Grazie a tutti voi, noi ci sentiamo domenica prossima puntuali come sempre alle 10, grazie a Giorgio De Luca in redazione, l'assistenza di Margherita Ina, Carmelo Lauricella in regia. Buona domenica da Stefano Gallarini.